Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Europa che oggi lancia il programma umanitario più grande della sua storia. Ha un valore complessivo di 348 milioni di euro con un sistema nuovo, cioè trasferimenti di denaro diretti ai profughi siriani in Turchia che verranno versati direttamente su carte elettroniche ogni mese per permettere loro di far fronte alle necessità. Ora è chiaro che questa indicazione, questo meccanismo sembra in qualche modo richiamare quell'esigenza di cui si dibatte in Europa da più di un anno sulla registrazione dei profughi. Vi ricordate il grande tema degli hotspot? Fare in modo che le persone che arrivano in Europa e che comunque chiedono di entrare in Europa abbiano una riconoscibilità, dunque una registrazione. Ecco, chissà che questo meccanismo, che prevede evidentemente un'importante spesa per il bilancio europeo, possa unire queste due esigenze, cioè quello della sopravvivenza di chi appunto lascia il proprio paese in guerra e quello di una maggiore conoscenza / sicurezza di chi accoglie. Torneremo naturalmente su questa notizia. Intanto il presidente dell'Unione Europea Donald Tusk era a Londra questa mattina, dove ha auspicato che Londra avvii i negoziati per la Brexit e lo faccia al più presto. Il servizio. L'iter della Brexit deve iniziare il più presto possibile, lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk a Londra per incontrare la premier britannica Theresa May e discutere con lei di modi e tempi dell'uscita del Regno Unito dal Club dei 28. Con una metafora sportiva, Tusk ha sottolineato anche che ora la palla è nelle mani di Londra, la quale tuttavia finora sembra non aver avuto fretta. Mentre ha annunciato, proprio ieri, la costruzione in Francia sull'autostrada per il porto di Calais di un muro per fermare gli imbarchi clandestini verso l'Inghilterra. E tuttavia la Brexit potrebbe essere vista come un'opportunità alla creazione di una vera e propria politica di difesa europea, secondo Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Non saremo più frenati, ha detto Mogherini in un'intervista, da un paese che si è sempre opposto con determinazione all'idea di mettere in comune gli strumenti di difesa. La mia sensazione è che la futura uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione abbia tolto un comodo alibi dietro cui molti si nascondevano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tutto mentre un altro muro spunta, o meglio sta per spuntare, sulle strade d'Europa. È un muro pensato dal Regno Unito e che sarà costruito in territorio francese. La Grande Muraglia di Calais. I media hanno già ribattezzato così il muro da 2 milioni di sterline che la Gran Bretagna è pronta a finanziare in territorio francese per fermare i migranti che dalla ormai famigerata giungla, vero e proprio campo profughi nei pressi dell'ultimo avamposto francese, provano a superare con ogni mezzo il confine marittimo con Londra. Il ministro dell'interno britannico Robert Goodwell ha annunciato che i lavori per erigere la barriera, alta 4 metri e lunga 1 chilometro, inizieranno questo mese con l'obiettivo di concludersi entro dicembre. L'intenzione è scoraggiare i migranti dal tentativo di passaggio oltre Manica, portato a termine spesso e volentieri saltando sui camion diretti a Dover. L'annuncio è già stato pesantemente criticato dall'Associazione degli Autotrasportatori Britannici, che l'hanno definito uno spreco di denaro pubblico. Il loro leader, Richard Burnett, ha suggerito di investire più denaro nella sicurezza sulle strade che conducono verso la Manica. Proprio Calais è finita nuovamente lo scorso weekend al centro di forti proteste della comunità locale, che chiede la rimozione della baraccopoli che ospita ormai 10.000 migranti. Più a sud, in Austria, il governo di Vienna ha invece raggiunto l'intesa su un provvedimento di emergenza che prevede un sostanziale stop alle richieste di asilo, respingimenti in paesi sicuri e fino a 2.200 soldati per controllare i confini. La Notverordnung avrà una durata semestrale e potrà venire prolungata fino a 3 volte. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Austria, dove il 2 ottobre si dovrà ripetere il ballottaggio delle presidenziali. Sarà un voto molto delicato per l'Europa, non solo, noi lo seguiremo. Bene, con questo è tutto per la notizia europea. Adesso, come di consueto, la linea va a tutti i convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.